Zanzara, parlo con la Zanzara. Ciao, 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani. Che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa. No, niente, no, male. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quello che ti ha spaccato il quadro sulla testa, mi dispiace che ti ha fatto poco male. Ah, hai capito? Sì, sì, te la doveva spaccare la capoccia. Perché hai fatto un'informazione faziosa. Avete tirato merda addosso stomaco, gli avete fatto 10 anni di torture. Tu e Sartoro e la Miciotti. Va bene. Comunisti schifosi. Bravo! Sei un comunista schifoso, capito? Tu la democrazia non sai neanche tossarti casa. Per voi, ma t'annaffanculo, ce l'hai rovinata la giornata. Io, capito? Ti sei rovinata la giornata. Berlusconi fino adesso, tu e Sartori e quell'altra merda dietro avanti. Oh, questo gentile signore che avete sentito si chiama Paolo Giallorenzo. Paolo Giallorenzo. Beh amici, possediamo numero di telefono, possediamo. Che dici? Dopo facciamo una puntatina, che dici? Proviamo, facciamo questo figlio di Einaudi, questo nipote di facciamo Einaudi, un'incursione questo... a dato del comunista schifoso a un inviato di come si chiama la trasmissione di Santoro? Santoro, servizio pubblico. Servizio pubblico, signor ha dato Bertazzoni della merda a Santoro e a Travaglio. Era spiazzato sotto Palazzo Grazioli per festeggiare l'assoluzione del Berlusca. Si chiama Paolo Gian Lorenzo. Tenemus numero, non è difficile avere il numero, per carità, però. Allora, i signori Dolce and Gabbana sono per la famiglia tradizionale, così ci fanno sapere dalle colonne del settimanale Panorama. In realtà, qualche anno, fino a qualche anno fa, si circondavano in foto posate, in foto su settimanali patinati, si circondavano di bambini e ne volevano tanti, persino 10, in particolare Dolce e Gabbana, sono due, Parenzo, sì, due, Dolce, no, e Gabbana, c'è anche la E in mezzo, Domenico e Stefano un po' più a favore delle coppie gay, cioè dei matrimoni gay. Signor Dolce invece dice no, la famiglia tradizionale, ci vuole la madre, eccetera. Hanno cambiato opinione, che ne so. Infatti sono chiamati adesso da alcuni Volta and Gabbana. Ci Volta sta Calambur, ci sta. Spettacolari voci di parcheggiatori abusivi a Napoli. Sai che non riesco a prendermela troppo con i parcheggiatori abusivi? Sì, no, per carità, sono abusivi, quello però... che vuoi. Non riesco a prendermela troppo con i parcheggiatori abusivi perché, in fin dei conti, poi alla fine che fanno? Stanno lì, a meno che non ti richino la macchina, non ti distruggano, non ti buchino le ruote. Mercato informale, no, si chiama. Io dico, sono d'accordo con te. No, ma non è che dico, andrebbero eliminati. Tu sei anche per la legalità, sì, sempre, ma se lo facessero sempre i rom, invece questo è uguale. Rom o non rom, che differenza c'è? No, non c'è nessuna differenza. Cioè, diresti la stessa cosa? No, la stessa cosa identica. No, io non è che sono a favore, attenzione, no, non sono a favore. Ma detto che sei a favore, non ti dispiaccio. No, ho detto, non riesco abusivi a prendermela troppo. Allora, andrebbero eliminati anche quelli. Cioè, se io vado là, non do un euro a un parcheggiatore abusivo. Se mi viene a chiedere i soldi, dico, senti, ma che vuoi, sei il parcheggiatore normale, sei il comune? No, e allora non ti do un euro. Certo, poi uno ha paura e non gli dai i soldi perché altrimenti ti rigano la macchina, eccetera, eccetera. Però senti quello che viene da Napoli, naturalmente, da Napoli. Noi siamo una famiglia, più pensiamo io, mia madre e c'ho un fratello, diciamo che adesso non c'è. Però allora, se Napoli a me non mi dà lavoro, il sindaco non c'è lavoro, allora noi ci siamo inventati questo piccolo lavoro dove esercitiamo un servizio, dove noi diamo un servizio in cambio di un caffè. Se Napoli non ci dà la... Io questo qua però divento pazzo. Se Napoli non ci dà un lavoro, te lo devi trovare il lavoro. Ma non c'è, lui dice, se non c'è mi invento. Te lo devi trovare il lavoro. Ma quello è un talento italiano, però, scusa. I parcheggiatori non servono, servono solo per parcheggiare. Ma questo, andare a rubare, e lì ti dici, dottor, la macchina non è attaccata. A parte che magari rubano pure, il punto non è quello. Questi signori parcheggiatori non devono dire, a me va bene che facciano gli abusivi, finché la polizia non... non controllano, li multano, li cambiano. Quello piuttosto, ma non lo so, rubino, ma no? Non mi interessa, non voglio polemizzare. No, ma non puoi dire Napoli mi deve dare il lavoro. Questo no, questo mi incazzo. Se dici Napoli mi deve Napoli dare il lavoro. È una strada. Chi vuol dire Napoli? Non è il comune. Vabbè, quello è come che dire, manca, senti, il lavoro, senti, a Napoli. Senti, questo, dice. Senti. Ci siamo inventati questo piccolo lavoro qua, ma io non è che vado vicino in macchina a cercare i sordi come mi hanno, oppure che levi multa coppia in macchina come ha fatto vedere il servizio alle Iene. Io quando tolgo le multe dalle macchine, cioè i miei clienti, che io posso dimostrare che i verbali che ho tolto dalle macchine li sono andati a pagare tutti. Ma che vuol dire che paga le multe dei suoi clienti? Bah, buon anno, è tornato più cattivo del solito dalla Libia, più cattivo, è stato punito con 2128 euro per le cose, bene, che ha detto la Boldrini, che bene, non conta un cazzo. Questo a me appare incredibile, devo dirti la verità, sì, semplicemente per l'uso della parola cazzo al Parlamento Europeo, per essersi rivolto alla Mogherini, bene, con i termini normali di tutti i giorni, che le persone, bravo, conoscono europeo, tutti, bene, i giorni e molto usano, bene, tutti i giorni. E poi fa un paragone: se Boldrini era Eva Braun, immaginate Schulz, che dovrebbe essere Hitler a casa mia. E allora Schulz non è che fa il presidente del Parlamento Europeo, fa il dittatore del Parlamento Europeo, perché se un parlamentare non può esprimere le sue opinioni e si dice una parola che in Italia la dicono praticamente tutti, allora bisogna stare attenti. Allora se la Boldrini, facciamo un esempio, era Eva Braun che mi dava 12 giornate di squalifica perché ha tirato fuori una spigola, non dico chi può essere Schulz, perché sennò mi dà un'altra multa, pensateci voi. Al Parlamento italiano ancora si discute, e non passerà mai, a mio parere, di divorzio breve. Adesso io dico, noi saremo magari interessati, qui abbiamo dei conflitti di interesse, ma il divorzio dovrebbe essere, sì, una roba, anche in presenza di figli piccoli, rapida, vai lì, firmi e via, tutto a posto. No, complicazioni, cattolici che rompono le balle, il Vaticano che si mette di mezzo, sì, e l'amico Gasparri che parla e dice che chissà che succede se uno c'è il divorzio breve. Ma sono cose da pazzi, da pazzi. Vladimir Luxuria è con noi. Vladimir, come stai, caro? Bene, grazie. Senti, ma hai visto Dolce and Gabbana? Anzi, c'è una precisazione da fare. Il signor Gabbana ha detto di essere a favore. Dunque c'è una coppia che in realtà su questo la pensa divisa, in maniera diversa. Coppia divisa. Però comunque è uscita questa roba in cui dicono sostanzialmente di essere a favore della famiglia tradizionale, quando in realtà dicevano altre cose anni fa. Come l'hai presa tu? Intanto voglio premettere che essere omosessuali non significa essere omologati, cioè un gay può anche pensarla in maniera diversa rispetto, beh, chiaro, anche al tema, chiaro, delle adozioni. Basta vedere questa coppia, anzi ex coppia, perché sono una coppia di lavoro. Dicono che non stanno più insieme, sì. Una coppia, adesso ognuno sa. Quindi Gabbana la pensa in un modo, è più aperto sulla questione della famiglia. Sì. Anche formata da gay, mentre Dolce è più, però Dolce aspro diceva che voleva circondarsi da 10 bambini, che voleva bambini dappertutto. Io questo no. Allora io devo capire se le opinioni sono un po' come degli articoli che vanno di moda, si portano un anno e poi dopo l'anno dopo si cambia opinione come si cambia un paio di jeans, perché effettivamente non solo la famosa copertina, insomma, in cui, sì, i loro due, sì, dicevano che volevano i figli, volevano diventare papà, eccetera. Ma ancora più recentemente avevano molto criticato, avevano proprio invitato a non andare al convegno col famoso di cui avete parlato, sì, a Milano, sì, che, sì, aveva organizzato la Regione Lombardia sulla famiglia tradizionale, che definirono appunto una pagliacciata. Quindi non ho capito bene adesso qual è la loro posizione, perché è abbastanza confusa. Mi auguro una cosa, hai presente quel modello Strabono con gli occhi azzurri e quel costume bianco? Beh, adesso non lo so, ce ne sono tanti dei modelli. Il profumo di Dolce che si chiama David Gandhi. Ah, sì, sì, sì, beh, allora cosa, beh. Ti piace, adesso, quello, ti piace? No. Spero che non lo cambino con Carlo Giovanardi adesso, perché non vorrei ipotizzare un futuro in cui mi vedo al posto di Monica Bellucci stilare Paola Binetti e al posto di David Gandhi in intimo vedermi Carlo Giovanardi. O buon anno, che ne sai. O buon anno, esatto. E quindi Cioè, spero che non cambi, almeno possono cambiare opinione, ma almeno non cambino i modelli quelli sulle, su, sulla, sui manifesti, eccetera. Però, esatto, dopodiché, sai, io non sono. Scusa, ma questi, queste cioè, persone cambiano opinione come le mutande, dici, alla fine, sostanzialmente. Speriamo. Beh, insomma, spesso. Credo che quello che Volta e Gabbana, nel senso che prima dicevano una cosa, poi ne dicono cambiano un'altra, opinione come le mutande, dai, cambiano opinione come le mutande. Però io dico una cosa, secondo te il fatto di essere ricchi un po' aiuta da questo punto di vista? Cioè, alla fine che te frega, no? Invece da, per il mondo gay una parola di Dolce e Gabbana decisa sul matrimonio, sulle unioni, proprio in questo momento che si discute, sarebbe utile o no? Sì, sarebbe utile, però non è che possiamo obbligare le persone a dire quello che vogliamo noi. Io penso che abbiano detto una grande stupidaggine, perché usare certi termini, adesso tu puoi anche pensarli in maniera diversa, sì, io non sì. sono qui, però usare termini come figli sintetici, come se fossero dei tessuti. Sì, sì. Io credo che sia un'offesa non alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ma un'offesa soprattutto a questi bambini, perché io non parlerei mai riferito a un bambino di un figlio sintetico. Sì, alla procreazione assistita, sì. Sono sempre bambini. Sono bambini fatti nascono di occhi, di cuore, certo, di certo. E di... E di i figli sintetici, cioè, se non I li vuoi, sintetici non esistono, se non li vuoi, non li fai, e fai la procreazione assistita. Ma non è che quelli che nascono dalla procreazione assistita sono sintetici, sono bambini come gli altri, punto e basta. Sono bambini. Poi uno dice: non li voglio perché non voglio fare la procreazione assistita, non voglio mettere il mio seme dentro, no, dentro un'altra roba. Benissimo, sei legittimo. Vladimir, ma sì. se rimani in un'isola con Buonanno, che fai? Tu da sola in un'isola con il signor Buonanno? Cioè, ma mi vuoi così male proprio? In un'isola da sola con Buonanno, signor Buonanno. Che succede là? Cioè, l'unico uomo presente, l'unica persona vivente, è il signor Buonanno. Buonanno è Vladimir Luxuria. Non in un gioco, non nell'isola dei famosi dove sei stata. Ma proprio in un'isola così, cioè un naufragio, cioè un viaggio, magari vi trovate insieme. Naufragio, tu e Buonanno. La stirpe umana è finita, morta. Mi accoppio con un gabbiano, mi accoppio con un pellicano. Meglio un pellicano. Ma signor Buonanno, però un ometto così simpatico, Non è bruttino. Ma come cabarettista, no, di un localino di una periferia che paghi 2 euro per divertirti a lanciarli i pomodori, ancora meglio mettere la testa come, nel cesso, come uno che ci fa fare sempre queste, mamma mia, ci rappresenta così come ci rappresenta lui. Ma è andato in Libia adesso, dai, sì, è andato in Libia. C'è rimasto, no? No, è andato, si è trasferito dopo a Strasburgo. Sì, è tornato. Sai a Strasburgo. Cosa ha fatto? Che è andato in Libia per in Libia. Sventolare la bandiera della Libia. Vabbè, no, ha incontrato anche personaggi locali, importanti, cosa? Personaggi hai politici, incontrato? Dai, su. Ma comunque, sai qual è la cosa più incredibile che ha detto? Non so, adesso poi bisogna sempre distinguere Dolce oppure Gabbana, perché sono sempre due. Che la famiglia non è una moda passeggera, a parte che bisognerebbe vedere le statistiche. Ma ci sono cose naturali da non modificare. È che io divento pazzo. Guarda, ci sono cose naturali da non modificare. Che lo dica Casini è un conto. Che lo dicano. Ecco, insomma, peggio di Casini. Peggio di Casini. No, cioè. Loro se lo pensano, lo dicono. Cioè, poi pensano una cosa, poi esattamente il contrario. Passano 2 mesi e cambiano idea. Vabbè. Poi, tra l'altro, adesso cercano di ritirare la mano dopo aver lanciato il sasso, perché dicono che sono stati fraintesi, che è colpa dei giornalisti, eccetera. Vabbè, ma a parte questo, c'è una vicenda penosa, dici tu, alla fine. Ma sì, io veramente credo che rispetto a che la voglia di diventare genitori è quello di più lontano da un valore passeggero, perché ragazzi, una volta che c'hai un figlio devi cambiare totalmente la tua vita. Tu lo vorresti avere un figlio? Lo adotteresti un figlio? Io ho avuto il desiderio di adottare un figlio una volta che ero in missione con l'UNICEF in Africa, l'ho anche raccontato. Ma e adesso, ho no, adesso no. Adesso, sinceramente, no. No, cioè, ma che te frega, 50 tu? Anni. Fare 4 di mattina, di sera, che te frega. Però. Io parlo per me. È un fidanzato non nemmeno. Non sono una di quelle che dice, dato che mi metto a dieta io, nessuno deve mangiare la Nutella. No, capito? Beh, cioè, certo, vabbè, chiaro. Ma scusa, ma perché non ti fidanzi una volta ogni tanto? Io sempre da sola, io non ho capito sta cosa. Un fidanzato, eccetera. Guarda che si può essere pure singolo e felici, eh. Non no, è perché che... a me lo dici? Sì, sì, no, certo, assolutamente, sì. Aspetta, ma no, perché... Dimmi, di sicuro? No, di sicuro non farò campagne di boicottaggio contro... le cose, i vestiti di Dolce & Gabbana, perché io non sono una grande fan di queste campagne di boicottaggio. Penso però sinceramente che sarà una cosa abbastanza spontanea che avverrà. Cioè bisognerebbe farlo, dici te? Ma no, cioè secondo me uno se è indeciso tra un capo e un altro, dopo quello che ha detto Dolce & Gabbana, secondo me si compra un'altra marca. Cioè un gay, ma non solo un gay, guarda, anche i nostri amici. Perderanno mercato, dici te, perderanno un po' di mercato. Ma sì, adesso saranno costretti a ritrattare, perché sai... Hanno paura, tu dici. Come successe la Barilla. Po' il caso Barilla. Poi soprattutto nel settore della moda, io vorrei capire adesso quanti commessi che magari lavorano in una filiale di Dolce & Gabbana a New York e che sono sposati, che hanno figli, gli girano le palle. Un po' te lo auguri, un po' te lo auguri, diciamo. No, io non guardo il male non lo auguro a nessuno, io sono sempre per il Made in Italy, quindi non... Però magari una lezioncina, dici tu, no? Ma io credo che loro, più che una lezioncina, adesso saranno già secondo me ci sarà già qualcuno del loro entourage che gli ha fatto capire, che hanno detto... le orecchie a Dolce e a Gabbana. Senti, ma sei contenta della soluzione di Berlusconi o no? Dimmi la verità, sei un po' contenta della soluzione di Berlusconi? Allora, guarda, io credo che un avversario politico, che non è mai un nemico, dovrebbe essere combattuto sul piano politico e non tanto spiare dal buco della serratura di una stanza. Cioè, gli affari di Berlusconi di letto sono affari... La prostituzione, ognuno deve essere libero di fare quello che gli pare. Cioè, non era prostituzione, secondo te? No, io credo che sia una sorta di bigottismo sessista di ritorno. Molti giudizi che sono stati espressi, per cui le ragazze andavano lì, si facevano pagare, si facevano può darsi mantenere, però non è prostituzione, cioè succede ovunque, tu dici, no? Ma cioè, ognuno a casa sua può pure fare come gli pare, può, no? Pagare può pure può pagare pure le donne, dici. Sì, se a meno che ovviamente non si tratti di costrizione. Vabbè, certo, ma non credo proprio, perché queste si vantavano pure. Vabbè, speravano pure una carriera. Però insomma, non, per me Berlusconi va combattuto sul piano politico, non sul piano del sesso. Ciao, grazie, ciao Vladimir, ciao. Ma qui è tutto un casino, che siamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Parenzo ama gli zingari perché probabilmente lo somatizzano. Ma Parenzo ama essere somatizzato dagli zingari? Questo non credo. Grande scontro ieri sera a Matrix tra Paolo Liguori e un giornalista di Repubblica che si chiama Berizzi. Paolo Berizzi. A un certo punto Liguori, nel casino generale, prima chiede a Repubblica di fare le scuse a Berlusconi, ma quello l'aveva detto già la Zanzara. Poi dice anche Mauro non c'è, cioè il direttore di Repubblica. Berizzi è come i ragazzi. Sentite. Mauro non c'è, ragazzi, lo deve dire. Sì, ragazzi che difendevano tutti in una scommessa con il pubblico. Ma non sbagliamo sui ragazzi. Una replica su questo tema, i grandi giornalisti italiani che hanno scritto delle porcate su Berlusconi. Cioè Berizzi come i giovani della gioventù hitleriana, cioè dovrebbe venire Ezio Mauro qui a spiegare nei panni di Hitler, cioè quello che ha messo in croce Berlusconi. Vabbè, Paolino, un po' esagerato, dai, forza, dai. Oh, Pino Scotto, il nostro editorialista, il signor Pino Scotto. Quello parla attraverso dei rutti. Senti cosa ha detto di Berlusconi, senti. Rubi, Berlusconi assolto, ringrazia i giudici. Ma qualcuno si aspettava qualcosa di diverso? Insomma, sì. Ma secondo me anche le pantecane del Naviglio qua a Milano lo sapevano. Ma dai, per favore, ragazzi, questa è l'Italia. La giustizia è uguale per tutti. Col cazzo! Sant'Anché Barbacetto. Chi paga la montagna di soldi che è stata spesa nelle investigazioni, nelle intercettazioni, tutte le porcate? Chi paga? Aspetti, guardi, sono spesi 16.000 euro. E va bene, per lei sono pochi, per gli italiani 16.000 euro, guardi, ci sono famiglie che sa quanto vivrebbero, poi 16.000 euro non diciamo cazzate. Ah, sì, però se poi i pedofili diciamo vanno cazzate in giro... Cioè, non è che puoi dire ad un pedofilo: te ti metto sotto processo perché sei andata con una minorenne, e il presidente del consiglio no, perché è il presidente del consiglio. Scusi, la legge deve essere, ma non è andata tutti così. Ma non è andata così, così. È andata così, però... sì. Beh, caro Barbacetto, però non è proprio così, dai, su, non si può dire che siccome bisogna mettere sotto indagini i pedofili, i magistrati sono come gli esseri umani. Cioè, agiscono in base a sentimenti. Questa cosa dell'obbligatorietà dell'azione penale, no. Ma come no? Ma dai, ragazzi, è stata una guerra tra Berlusconi e la Procura di Milano. A un certo punto la Procura di Milano si voleva inchiappettare, quello sì, si voleva inchiappettare Berlusconi. Tra le tante cose che Berlusconi ha offerto nella sua vita privata c'è stata anche questa della frequentazione. I magistrati hanno trasformato tutta questa frequentazione di donne, eccetera, eccetera, e personaggi certamente discussi in ipotesi di reato, perché poi in Italia è facile trasformare alcuni comportamenti in ipotesi di reato, e di qui un processo. Un processo che però si è trasformato in una sconfitta clamorosa, bisogna dire, dopo intercettazioni, spese. Adesso Barbacetto dice. Quindi a maggior ragione è una grande vittoria quella di Berlusconi. Sì, però, ragazzi, cioè, a maggior ragione la verità della processuale vita, è emersa. Sì, ma alcune no? cose della vita privata di Berlusconi, cioè. No, ma sono d'accordo con te, però non si sarebbero sapute, no, senza io, se le intercettazioni. Ero, dai, il primo, su, che dai, ero scatenato a favore di questi processi, ma, se ti appunto ricordi, eri, no? Il primo scatenato a favore ma dei sono processi. Sono il primo, lo sto dicendo, non è che sto tornando, dai, indietro, su. Però ti dico di più. Cioè, oggi sono il primo a dire evviva evviva, bene che sia ma stato che assolto. Va bene, sai intanto... perché? Perché? No, dimmi. No, perché ma non è che sono è la prova impazzito. Che la giustizia funziona, questa puttanata. No, è dire. La prova che intercettazioni, cose, cosa? Processi hanno dimostrato una verità, cioè hanno accertato. Ma che vuol dire? Ma è chiaro commesso. Che è chiaro che Berlusconi è stato sputtanato. Ma a me va bene, mi diverto come un pazzo. Ma è chiaro che è stato sputtanato dalla procura. Ma scusa, no? Vabbè, hai detto allora bene, no. Ipotesi, ma i processi servono a mettere in sì, piedi. Però non è tutto così formale. Questi qua lo hanno fatto per mettere alla berlina Berlusconi, per incularselo. Ma non ci sono riusciti. Per incularselo, ma no, per incularselo. Ma scusami, la giustizia italiana alle volte funziona, allora non ci sono riusciti. Digi Trader, non hai capito quello che dico. Ma non è. Quella è la procura, è l'accusa, la pubblica accusa. Non è che sia Repubblica. Siete gente incredibile. Va bene, però. Siete gente chi io parlo, parla tu per me. Tu hai il mainstream di TG3, dai, non dire cazzate, dai, dai. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Effetto Draghi su tassi e spread dai minimi da 7 anni, euro sempre più giù, esportazioni favorite, scontro diplomatico fra Atene e Berlino sul debito. I vescovi sulla sentenza Ruby, un conto è la legge, altro è il dato morale. Per l'Associazione Nazionale Magistrati, fuori luogo evocare la responsabilità civile. In Consiglio dei Ministri la riforma della RAI e il disegno di legge sulla scuola, i precari in attesa della stabilizzazione, le proteste degli studenti. La maggioranza si divide in Commissione Giustizia sulla prescrizione, Area Popolare dice no all'allungamento dei tempi, il testo in aula da lunedì prossimo. Con un'ampia maggioranza Strasburgo vota a favore del riconoscimento delle unioni omosessuali, riconoscere, dice l'Europarlamento, è un diritto umano. Un'altra notte di follia a Ferguson, un corteo antirazzista per festeggiare la rimozione del capo della polizia, ma qualcuno spara e ferisce 2 agenti. Sequestrati dall'antimafia 2 ristoranti al Pantheon a Roma, il più grande centro commerciale della Calabria, controllato dall''Ndrangheta. Allora, io sono d'accordo, poi alla fine per chiudere il discorso, sono d'accordissimo come al solito con quello che dice Mughini, che dice: mi direte che ciascuno a casa sua fa quello che vuole e predilige gli sculettamenti che vuole, non c'è dubbio. Però se sei il capo del governo e dunque una parvenza di stile la devi avere e mantenere. Ma io sono d'accordo su questo. Sono d'accordo su questa roba qui. Politica, ma che solo è questo, rimasta, il resto no? Però è uscito fuori perché i magistrati hanno fatto le intercettazioni, punto, basta. Perché le volevano fare per incularsi Berlusconi. Ma a me piace sangue e merda. Sangue e merda significa pure questo. Magistrati che si vogliono inchiappettare Berlusconi. Beh, io no. Questo è sangue e merda. Mi fa paura, ma questo è, così. Non lo vuoi riconoscere, ma questo è. No, perché che fa Woodcock ogni tanto? Mette in piedi delle inchieste per incularsi potenti. Ma non è che lo fa su qualsiasi cosa. Ma tu credi che a Milano non è diverso? Fanno inchieste per inchiappettarsi potenti. Può piacere, infatti a me piace. Faccio sentire le intercettazioni, ma quello è. Non dico che è la giustizia contro Berlusconi. Sono i magistrati che si vogliono inchiappettare Berlusconi, punto. A me diverte tantissimo, fa parte della politica, del gioco. Sangue e merda, insomma, mi diverto come un pazzo. Però uno non può negare la realtà. Pensare che un è così, però è così. Che una parte dello ma Stato, succede anche in America, dove i procuratori qualche volta, ma come no? Guardate che in America sono eletti dal ma popolo. Appunto, i procuratori però si accaniscono contro alcuni perché sono fissati. Dopodiché se perdono vanno a casa però, ma vanno a casa. Ma quelli lo dichiarano anche perché vengono eletti per quello. Vabbè, dove andiamo? Andiamo a... Provincia di Chieti, Amerigo, vai. Ciao Cruciani, buonasera. Vai. Ascolta, a me fa impazzire l'ipocrisia di quelli che ammantano. Quelli c'è la giustizia che no, vuole scoprire se ci sono reati. Non c'è no, nessuna ipocrisia. Spesso non è così. Si vogliono incappettarsi alcuni per alcune persone perché gli stanno sulle palle. È così un golpe. Ma non è, ma è così. Devi dirla è così. Fino in fondo. Ma non bene, è un golpe, allora. Fa parte del gioco. No, sangue e merda. Ma che sangue? Amerigo, è un golpe. Ma è così. Ma quale golpe? Se è così, sì, golpe. Devi dire che è un golpe. Golpe, golpe. Volevano rompere i coglioni a Berlusconi. È un golpe. Un pezzo dello Stato che si mette contro il capo. Ma tu credi che non sia così? È così. È un golpe, e allora devi chiamarlo golpe. Ma non, io non lo chiamo golpe perché me ne frego. Allora è un'ipocrisia, cioè o è Amerigo quello della provincia di Chieti. Devi dire che è un golpe, hai detto che ma è un golpe. Ma no, perché esiste in tutte le democrazie che ci sono dei magistrati che si mettono contro il potere. Dai, Amerigo, è successo anche in Spagna con Baltasar Garzón, sai, Garzón. Ma Amerigo, vai, dimmi. Crucia, chiedo pubblicamente scusa al presidente Berlusconi perché ho giudicato prima del tempo. Ascolta, volevo parlare di altro. Il mostro di Napoli che ha abusato del violento. Sì. Intanto, cioè, sappiamo che. Cioè, dove cazzo si trova sto coraggio, sta forza, vabbè, comunque, e una pena per questo individuo non esiste. A mio vabbè, Amerigo, allora... A mio giudizio è quello che dissi una volta, i forni crematori per sta gente, altro che la castrazione chimica e altro lasci che... Lasci stare i forni crematori che evocano, ma i forni crematori sono stati usati per altre cose. Ascoltami, altro che... Sì, Amerigo, da dove stai parlando innanzitutto che ti sentiamo male? Dalla fabbrica. Ho capito, dalla fabbrica, amico mio, cerca di parlare più forte. Perché... Sì. Allora? Altro che la castrazione chimica o chirurgica, perché tanto uno che è malato a Napoli la stessa cosa. Vabbè, ma che c'entra il forno crematorio? Scusa, allora sta gente deve essere stirpata, deve essere cancellata. E in che modo? In che modo? In questi modi qua. In questi modi. Li ammazziamo con la pena di morte. In alcuni stati in America. Vabbè. La pena di morte. Perché quel bambino non è morto secondo te? Com'è? Poi uscirà il bambino, il figlioletto, se è un morto. Com'è? Questo bambino è vivo secondo te? Beh, no, ascolta, certamente uscirà il pezzo di merda d'avvocato che lo difenderà, gli farà prendere la semi-infermità mentale, si farà 4-5 anni no. In un istituto. Vabbè, Crucia, Alessio. Ma no, ma non succederà, dai. Te lo ricorda lei? Non sento più niente. Andrea, provincia di Palermo, vai. Andrea. Dimmi, Andrea, dimmi. Salve, niente, no, praticamente siccome poc'anzi sentivo... Poc'anzi, il discorso dei matrimoni gay, sì. Che per carità ognuno è libero di fare della propria vita quello che vuole. Sì, allora? L'unica cosa che non si è pensato, che i bambini, almeno chi ha figli lo sa, io ne ho due, quindi l'ho visto con i miei occhi, sì. Che emulano quello che hanno davanti gli occhi. E dunque? Che succede? Diventano gay? Uno possa avere delle buone intenzioni, essere il miglior genitore del mondo, che sia due donne o due uomini, purtroppo i bambini inconsciamente cercano di emulare i genitori. E dunque che fatto? Diventano froci? Ma c'è una forte probabilità, non è detto che... Cioè lei dice che da genitori omosessuali possono nascere bambini gay e dunque praticamente l'umanità diciamo si dissolve, giusto? Più che si dissolve diminuirebbe, che magari potrebbe diminuirebbe, essere cioè, diventiamo tutti froci. Fermi come tutti l'ha tirata fuori sta teoria. Le previsioni di Andrea dalla provincia di Palermo, diventeremo tutti froci se avanza il matrimonio gay. Pasquale da Imbassago la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Federico. Oh, intanto ragazzi, in Thailandia s'avanza il matrimonio a tre. A tre, matrimonio, sì, a tre. Beh, il matrimonio visto, a tre, visto, con tre gentili signori vestiti di bianco che sì, si sbaciucchiano. Cioè, sarà possibile, forse, secondo la tradizione buddista, ma non è ancora sicuro, sposarsi in tre. Ma anche in quattro, fare cinque, il matrimonio. Cioè, no, io matrimonio in tre. No, vuole, matrimonio in tre non ce la faccio, no, devo dire la verità. Non ce la fai. No, matrimonio in tre, no, dai, è esagerato. È un il matrimonio una stramberia, indubbiamente. No, matrimonio a tre, no, dai. Cioè, ma che vuol dire matrimonio? Corrido buddista, ma sì, ma dai, ma ragazzi, va bene tutto. Io sono a favore del matrimonio omosessuale, anche sposarsi, ma il matrimonio, con un animale, ma il matrimonio a tre non va bene, dai. Ma su, uno, se vuole, può anche sposarsi, no, ma uno con può un stare insieme, ma in tre dentro casa e avere una relazione a ho tre, capito, va benissimo. Ma tu sai che ci sono delle persone che fanno testamento e lascia tutto al cane, ad esempio. Ma sai, quell'altro è un'altra follia, un'altra follia. No, ma dovrebbe ma essere impedito. Tutto. No, dovrebbe essere impedito. Io ti dico solo la verità. Se uno lascia al ma cane o agli animali, dovrebbe essere impedito una cosa del genere. Ma sei un liberale a questa alternata proprio. In presenza di eredi, come dire, viventi, cioè di eredi uomini, donne, esseri umani, no? Esseri umani, chi lascia a un cane o a un gatto, a una ente, va proibito per legge. Sei un liberale. No, strano, va proibito per legge. No, io non sopporto questa cosa qua. Lasciare i cani. Ma che gatti, te ne frega te? No, ma è insopportabile. Se uno, insopportabile. Ad esempio, se uno ha un parente che gli sta sulle balle, ed è l'unico parente, sì, dici guarda, io sì, a sfregio, piuttosto che darlo a te, lo do al cane. Sì. E cioè, ma è libero di farlo. Se, no? Senti ancora i parcheggiatori di Napoli, vai. Gli amici parcheggiatori di Napoli. Sì, ma che svolgono una funzione sociale fondamentale. Senti, peraltro, senti. Cioè 30 anni di servizio, diciamo, abusivamente illegale, chiamatelo come volete voi, sì, non hanno mai avuto una denuncia. Andate a vedere sui comandi di carabinieri, polizia e polizia municipale. Non c'è una denuncia contro i parcheggiatori abusivi in via Marina. Sì, è vero. Beh, questo non vuol dire niente, però, amico mio. Amico parcheggiatore abusivo, io ti voglio pure volere bene perché non fai male a nessuno, però comunque sei abusivo. Però non è che se non c'è una denuncia significa che è tutto regolare. Perché c'è stata tolleranza. C'è stata tolleranza. Ma giustamente, perché questi piuttosto che ma rubare. Ma tu tolleri ovviamente tutto quello. No, cioè, no, non tollero tutto, però cerco. Non tollero proprio niente. Che tra l'altro sono per le manette, come tu spesso mi ricordi. Dai, però dai, c'è un piccolo livello che è di illegalità, ma di gente che vive di espedienti. La piccola illegalità va bene. No, ma è una piccola illegalità. Dici rubano, vanno in galera ovviamente. Ma senti, questi anziché rubare, per fortuna, senti, si inventano un lavoro innocuo. Non so, senti, come quest'altro, dirti. Senti, non questo è che guadagnano milioni di euro in nero questi. Bisogna distinguere. Io penso che si deve fare una distinzione fra parcheggiatore e il parcheggiatore, che io sono il parcheggiatore, che quelle persone che danno calci nelle macchine, graffiano le macchine, litigano con le persone in macchina, dicono parole, quelle persone non sono i parcheggiatori, sono parcheggiatori occasionali. Quindi io sono il parcheggiatore, non farei mai, cioè nel mio piatto non ci sputerei mai dentro. E poi tra l'altro questi parcheggiatori abusivi sono gli stessi che dicono questo è territorio mio, è no, territorio mio, gli altri non ci devono entrare, io sono il parcheggio, gli altri sono, cioè se un altro cerca di fare illegalmente lo stesso lavoro che loro fanno, sì, illegalmente, c'è solo lui, cioè te menano pure, questo è insopportabile, almeno stai zitto, no? Cioè almeno sì, fai il parcheggiatore abusivo, no, esatto. E stai zitto, è una cosa pazzesca, dai. Edoardo da Modena, fra poco un ospite qui in studio. Edoardo, eccomi Modena, qua. Vai. In studio. Sono. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao caro. Allora, una breve perla. Dimmi, oggi perla, che perla si sprecano è? I commenti. No, una perluccia, perla di fiume. Sì. Allora, oggi si sprecano i commenti per la soluzione di Berlusconi. E abbiamo due gioielli da parte degli esponenti delle due più grosse caste che ci sono in Italia. Una i magistrati e l'altra il clero. Ma i magistrati sono stati zitti però, fino adesso. Hanno parlato per loro altre persone, diciamo, al posto dei magistrati, insomma. Ma Travaglio e altre persone hanno parlato per loro dicendo che Berlusconi è comunque puttaniere. Gad Lerner, per esempio, ha detto: è stato e resta un puttaniere, eccetera, eccetera. Ma io sono d'accordo. Però a parte che la parola puttaniere, Luxuria, la parola puttaniere detta in questo modo sembra un'offesa. E poi uno può essere anche puttaniere, che alcuni comportamenti fossero. Diciamo come, che questo non ha mai usato i soldi della regione Lombardia o della regione Lazio per andare a puttane. Ecco, se non altro su questo vorrei no, questo sicuro. No, ma Berlusconi i soldi ce li ha. Per cui esatto. Però certo ogni tanto metteva qualcuno anche nelle istituzioni, non è che non metteva, comunque vabbè, lasciamo perdere. Allora, allora la perla Sciabelli e il signoriello, pensa un chi? Nome un mito, chi? Il segretario della CEI, che con il fardello di prostituzione minorile, pedopornografia, stupri ai danni di hanno detto che 30, la morale è un'altra cosa, sì, uno ha detto che la morale è un'altra. 30 anni coprono, perché sì, sono 30 anni che coprono. Adesso un po' meno, adesso un po' meno, è lo cambiato so, qualcosa. Abbiamo parlato di allora, il primato però, d'Australia, il primato del Canada. Tu dici non questi possono vanno a fare la morale a un puttaniere. Cioè non possono parlare di Berlusconi, proprio i preti e il Vaticano non può parlare di Berlusconi come uno che offende la morale e tutto. Ma l'Avvenire che si fa testata per dire una cosa, va bene, è un puttaniere. Io ho apprezzato moltissimo Vladimir Luxuria, perché no, prima effettivamente Luxuria ha detto io sono contento della soluzione di Berlusconi perché non si va beh, equilibratissimo, vabbè, a me fa impazzire un'altra cosa, Parenzo, che oggi il Parlamento Europeo ha definito diritto umano il matrimonio omosessuale. Io sono a favore del matrimonio omosessuale, ma se qualcuno mi dice che è diritto umano io mi incazzo, perché io posso essere a favore del matrimonio omosessuale e sono a favore proprio alla grande, però i paesi che non hanno il matrimonio omosessuale non è che sono paesi inferiori che violano i diritti umani, perché altrimenti uno che è contro il matrimonio gay diventa automaticamente uno che viola qualsiasi legge dell'umanità. Cioè questa è la follia. Cioè praticamente tutti i governanti italiani da 50 anni a questa parte sono tutti da processare per violazione dei diritti umani, perché il matrimonio gay è un diritto umano. Ma questa è una follia totale. Cioè, ma è una cosa ridicola. Non c'è bisogno che il Parlamento Europeo faccia queste puttanate. Come non c'è bisogno? Ma non c'è bisogno, Davide, dai, ti assicuro che non c'è bisogno, perché tanto comunque in un modo o nell'altro verrà, ma anche in Italia verrà introdotta qualcosa. Ma il problema non è questo, è che definire diritto sono linee guida per la legislazione degli stati, cioè è ovvio che si devono esprimere sui diritti civili delle persone, diritto, no? Umano, cioè secondo te il matrimonio gay è un diritto umano? Diciamo la verità, i diritti umani il matrimonio gay è un'opzione possibile, possono evolvere, ma i paesi lo adottano a meno a seconda delle loro politiche, a seconda dei loro governi. No, viene considerato un diritto umano in quanto diritto della persona, e in questo ma non senso è un diritto, se non se fatto ne occupa un Parlamento, chi se ne deve occupare? Ma tu resti alla cosa formale, vabbè. Ma non è formale. Ciao, il diritto. Abbiamo con noi Matteo Salvini, buonasera, come andiamo? Buonasera, direttamente eccoci da Strasburgo. Giusto appunto da Strasburgo. Non abbiamo votato solo quello. Diritto, però, che avete votato pure? Oggi ci hanno fatto votare anche la regolamentazione della pesca della spigola. No, beh, questo è la spigola, quella che buon anno smettolava, la spigola stessa. Ma Dio buono, ma con tutti i problemi che ci sono, questi devono impegnare uffici. Ma regolamentata come, scusa? È per limitare la spigola, ma tu vai sugli atti del Parlamento, è pubblico, ce l'ho in mano. Il dossier sulla... E giustamente c'erano dei parlamentari che hanno fatto degli emendamenti dicendo ogni stato farà pescare la spigola un po' come cazzo vogliono ai loro pescatori, senza che sia Bruxelles invece che volevano limitare la pesca, ma con le maglie delle reti, le canne da pesca, grandi, no? Ma c'era uno addirittura, una di sinistra del GUE, sì, dell'estrema sinistra, ha fatto un emendamento perché anche i pescatori, quelli che vanno per diletto con la canna come faccio io sullo scoglio, se io vado a pescare al mare con la cannetta, i pesciolini piccolini, pesca, se però li peschi e li rilasci, però danneggi il benessere del pesce. Ci sono delle cose del pesce. Sentite che pure voi ogni tanto fate delle interrogazioni incredibili. Capito, ma ognuno pesci e buoi dei paesi tuoi. Lasciate perdere le spigole. Però oggi noi... a proposito di matrimoni c'era anche quel passaggio, parlava anche di aborto. Io sono perché la donna decida in tutta a favore dell'aborto, tu io sì, sono perché male. La donna decida come vuole, però addirittura c'erano dei passaggi in cui si invitavano a facilitare le pratiche dell'aborto. Adesso un conto è essere rispettoso delle scelte, metodi un meno conto invasivi. È incentivare l'aborto. Vabbè, no, incentivare adesso, con no, la campagna, sembra... incentivare con la pubblicità, abortiamo. Ma no, quello no. Però sai che ci sono gli obiettori, però. Ma c'è questa, ma uno fa il medico, è libero di obiettare. Però siccome esistono leggi sull'aborto, se tutti obiettano, chi abortisce? Nessuno. Ho capito, ma il medico ha una coscienza. Potrà... No, ma infatti non è possibile obbligare un medico a far abortire una donna. Questo d'accordo, però Stato, essendoci la legge, dovrebbe in qualche modo consentire a uno che vuole abortire di abortire anche. Assolutamente, lo puoi fare in quell'ospedale, in quell'altro ospedale, se c'è chi obietta lo fai nel reparto di fianco, ma il problema è che Bruxelles vuole, appunto, come dicevi, stabilire tu, il diritto umano, stabilire quello che è giusto e quello che non è giusto. A me la notizia che mi ha terrorizzato questa settimana è arrivata da Londra, dove quel single gay è diventato papà grazie all'utero in affitto della madre. Sì, l'utero in affitto ma della questo madre. Secondo te è un diritto? No, l'utero in affitto della madre non è un diritto. Questo no, è un egoismo, questo no. È un bieco e volgare egoismo, non quello, è libertà di scelta. Quello sì, sulle cose consanguinee. Che uno uno single gay si rivolga all'utero in affitto della madre per diventare della papà, madre no, ma che si rivolga, non c'entra l'Europa, ma che si rivolga a un utero in affitto qualsiasi, tu sei d'accordo? No, ma io sono perché i bambini nascano e crescano come, come buon Dio ha deciso. Ah no, cioè, no, ma se poi uno è sterile, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, se uno, se uno non è può gay, avere dei figli. No. Ma il figlio di un gay single, con, pensiamo al bambino, cioè, oltre che l'egoismo del genitore, io sono gay, sono single e voglio diventare papà, pensiamo al bimbo. Vabbè, secondo te un bambino non può crescere bene con un single gay? Secondo me parte un gradino più sotto, cioè, poi ci sono coppie che saltano, handicap, io sono divorziato, parte con un handicap, e beh, vedi te. Parte poi con i matrimoni, sì, sì, anche sì, la famiglia non se la passa bene, perfetto, diciamo, ma sto dicendo, parla un divorziato, non sto dando lezioni di morale. Ma però c'è il divorzio breve, si parla, se ne parla di dare, lo vorresti? Io sono personalmente a favore, libertà, c'è un conflitto di interesse qua, lascerò libertà, no, di coscienza ai parlamentari della Lega, perché su questi temi etici secondo me non ci deve essere disciplina di partito. Però non hai lasciato libertà di coscienza a Tosi. Beh, insomma, a proposito di pesci, ho finito le guance da porgere. Ho cercato tutto. Mi ha dato del dittatore. Caino, dittatore. Basta, mi sembra per adesso. Sleale, scorretto, estremista. Però, ma infatti, io pensavo che stesse parlando Renzi quando mi hanno detto: guarda, che c'è uno che ti ha dato del dittatore, del Caino, sleale, scorretto, estremista. Però chiariamo una cosa: lui continua a dire, anche qui da noi più volte l'ha detto, eccetera, che c'era un patto tra di voi, per cui lui doveva fare, no, questo chiariamo una volta per tutte, doveva fare il leader del centrodestra, di leader, ma tu diciamo, pensi che gliene freghi qualcosa di chi ci sta ascoltando? No, quello no, però, uno è in coda, in tangenziale, almeno gliene, a me, secondo c'è me uno che lo supera sulla destra, no, della guerra Salvini Tosi non gliene frega niente a nessuno, no, ma lo so benissimo anch'io, l'ho detto più volte, ma non ce ne frega niente di Massima, ma due anni fa, però poi rischiate di perdere, rischiate di perdere il Veneto un ma po', un po', rischiate se Tosi si candida, sì. Ma guarda, quanto io rispetto vale? Gli avversari, io rispetto gli avversari. Tosi da solo non arriva al 10%, la Moretti ma... arriva al massimo al 30%. Io ho l'ambizione che per non quello 10, che ha fatto qualcosa, tanto, sì, sì, ma per carità di Dio, la democrazia quanto vale, è bella. Secondo te? Il 6 o 7%, 6 o 7. Tanto i sondaggi non a Salvini, no? Io non ho la lampada, no, vabbè, no. 6 o 7%, nonostante il 6-7 vincendo lo stesso democrazia... secondo te, ma perché in Veneto guardano quello che Zaia ha fatto, vabbè, non a e chi poi, dice, promette, cioè oggi i comuni della provincia di Vicenza sono incazzati perché il governo Renzi Alfano Moretti ha tagliato altri 6 milioni di euro, che vuol dire tasse in più, ragazzi, capito, un po' di casini ve l'ha creati sto, ma sta, certo sta io preferisco non litigare che litigare, però se uno me la tira fuori, ma è vera questa cosa. Non gli avevi promesso, che gli avevi promesso, ma questa che promesso, roba? Si era detto tu fai il segretario, io farò il candidato leader del centrodestra. Oggi dov'è il centrodestra? Ma c'era un patto, sta roba no? C'era un non patto scritto tra di voi. Non siamo andati dal notaio, stavamo parlando come stiamo parlando io così, e te. Così, sì, c'era una cosa informale. Sì, ma in politica non vale, dai. C'è lui, no, dice, c'era un patto tra di noi. Salvini, su questo, scusa. Salvini è uno che prende voti. Due anni fa, il mondo, due anni fa. Parenzo ha detto che hai ragione. E allora cambio versione, perché se Parenzo mi dà ragione vuol dire che sto sbagliando. Ma in politica è ovvio, se uno è più bravo prende più voti e rivede il cazzo. Ma il tema non è questo. A Parenzo, quello che mi dicono su Facebook e su Twitter, sì, di riportare a Parenzo, riporta, chiuderebbero la radio fra una pure decina di fermi minuti tutti. Cruciani, datti una calmata, dai, capito? Lavoro in questa pasticceria da un mese e sono quello giusto, quello di cui aveva bisogno il titolare. Veloce, pratico, versatile. Il cliente non ha contanti? Tranquillo, può usare la carta. Preferisce il bancomat? Nessun problema. Chi sono? Il POS sicuro di Vodafone e Setefi. Metti la tecnologia Vodafone al servizio della tua attività. Se hai la partita IVA, scegli la soluzione per potenziare il tuo lavoro e diventare un ready business. Vai su readybusiness.vodafone.it. Messaggio pubblicitario, concessione POS soggetta all'approvazione di Setefi. Fogli informativi su monetaonline.it. La Zanzara. Allora, Flavio Tosi ha dato del Caino e del dittatore a Matteo Salvini, che è qui con niente, noi. Niente, me ne farò una ragione. Te ne farò una ragione. Secondo me Caini sono i ministri che stanno votando la depenalizzazione di 157 reati in Consiglio dei Ministri. Loro sono dei Caini. E Tosi come lo definisci? Ma era un amico. Infatti, io sono andato pure al matrimonio. Anche gli, amici, anche gli amici hanno diritto di cambiare idea. Che cosa ti devo dire? Ma dopo lui ritiene si che... sente tradito, perché dice: tu sei un dittatore che vuole imporre la sua linea anche in Veneto. Chi mi anche conosce sa che io, anzi, mi accusano di essere troppo dialogante, troppo coinvolgente. Allora la colpa è sua, che è troppo ambizioso, magari invidioso voleva... del tuo successo. Ma no, non di me. Lì penso che lui volesse prendere il posto di Zaia. Però Zaia è bravo, e quindi Zaia non però, si scusa, questa è un po' una follia. Come possibile che uno voglia prendere il posto di uno uscente. Io glielo pure chiesto. Non devi dirlo a me, non lo cioè, so. Secondo te questo voleva prendere il posto di Zaia alla fine? Voleva prendere il posto o condizionare Luca Zaia, che giustamente dice fatemi fare il mio ma lavoro. Ma quella della fondazione è una scusa, però, perché fino a poco tempo fa lui era. La fondazione esisteva anche prima, perché tu hai detto o la fondazione o la Lega. È la fondazione che fa cultura. Io in tassera ho la tessera dell'Avis, dell'Aido, degli Alpini. Beh, però un anno fa andava bene lavorare. Sì, perché non faceva politica, adesso si candidano. In diversi comuni si candidano e scusa, io questo lo capisce chi ci ascolta anche se non è della Lega. Se uno è un dirigente della Lega ed è dirigente anche di un'altra cosa che nei comuni si candida contro la Lega. No, quello non se, si non è normale. Se si candida contro non la Lega è normale. Con la Lega. Ma no, contro. Ci sono diversi comuni dove la cosiddetta fondazione candida i suoi uomini alternativi alla Lega. Ma Tosi ha, tradito la Lega, secondo te? Ma no, ma io gli faccio gli auguri. Guarda, Bossi l'ha definito un pirla. Non porto rancore. Non porto rancore. Stai sereno, possiamo il dire. Problema, no? il mio problema sono le scelte del governo Renzi-Alfano. Però lui è amico di Alfano. Questo, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Secondo me è il peggior ministro dell'interno della storia della Repubblica Italiana, quindi se uno pensa che il futuro sia Alfano è andato anche a trovarlo lunedì, vado in Sicilia al CARA di Mineo, al centro immigrati di Mineo, 50 milioni di euro dei cittadini italiani all'anno per mantenere 4.000 presunti profughi, e lì ci sono 11 indagati fra cui parecchio NCD, quindi voglio dire vai a dialogare con Alfano. Senti, però dimmi una cosa, se Zaia magari non succede, perché poi sembra che i sondaggi sono di un certo tipo, però se Zaia perde. Ma non perde Zaia. Vabbè, mettiamo è come se Zaia perde. Se la Juve perde lo scudetto, non perde lo scudetto. Attenzione, la Juve. Però, attenzione, c'è poco da fare. Lo dico da milanista, è lì da vedere. Mettiamo che perde. Ma non perde. Tu una volta facevamo una scommessa e hai vinto tu. E tu non avevi pagato pegno, però. No, Parenzo hai Parenzo che doveva venire a piedi a Pontida. Se tu pigliavi più del 5%, noi sarei venuto a piedi con i miei amici Rom a piedi. Bravo, vieni con i tuoi amici Rom, però di corsa, proprio correndo veloce. Se Zaia perde, mi dimetto da leader della Lega. A parte che Zaio non perde. Vabbè, mettiamo, io sono in discussione tutti i giorni. È chiaro che se uno perde delle elezioni si mette in discussione. Cioè, se Tosi si candida, Tosi? Non lo so, chiedetelo a lui. No, ma più o meno la tua previsione è che si candida, altrimenti che fa? Non so, scusa, fatto tutto questo casino per fare che cosa? Dunque si candida, si candida. Immagino, però con chi si candida? Con l'NCD? Ma no, fa la sua, che ne so, fanno il Fano, quello che è. Alfano proprio. Che ne so, con Passera. Passera. Qualche altro nome. Un bel nome, però. So, qualche altro pezzo 90, Montezemolo. L'unica cosa buona di Passera è il nome, però. Questo bisogna. Io una volta gli ho consigliato, sono stato anche rimproverato dai suoi, di chiamare invece di Italia Unica Forza Passera. Secondo me prende più voti. Ha fatto, ma magari una persona bravissima, però ha fatto il ministro con Monti e la Fornero. Uno che ha fatto il ministro con Monti e la Fornero, con Matteo Salvini e la Lega. Non la perde sta Fornero. Ogni volta ti attacchi troppo a sta Fornero. Non c'è più. Ma perché non sta qua la Fornero? Io sono un non violento. Però con tutti. La Fornero non perdi la testa. Con la Fornero io dovrei proprio fare autocontrollo. Cioè, perdi. Perché ci sono, ha fatto dei danni a migliaia di persone. Cioè, veramente. Quasi per la violenza fisica con la Fornero. No, io sono un non violento. Però con la Fornero. Però dovrei cambiare marciapiede. Devi cambiare marciapiede. Oppure gli salteresti sul cofano della macchina come fece quell'amico tuo. No, poi peraltro non vorrei che fossero assolti quelli. Però apro e chiudo la parentesi. Che sono amici di Parenzo, tra l'altro. Sono amici di Parenzo. Tra l'altro invitati qui alla Zanzara. I signori non vengono perché dicono che io sono troppo contro di loro. Se salti sul cofano della macchina. Dicono, ma come che posso sei una testa di cazzo. Se lo dicono loro, ovviamente me ne vanto. Io ho detto amici miei, però indubbiamente saltare sul cofano di una macchina indubbiamente ma che era un gesto pacifista, ma io li ho presentati a Parenzo Salvini. Scusa, oggi quei fenomeni dei cosiddetti studenti che hanno lanciato sassi, fumogeni, uova e vernice contro la polizia, sono degli studenti, non avranno la mia difesa, sono dei cretini quelli che hanno solidarietà ai due militanti nostri, noi con Salvini a Cagliari, successo? Che sono in pronto soccorso perché sono stati aggrediti da una quindicina di zecche rosse. Sono i democratici. Perché li chiami zecche rosse? Perché hai preso da casa Pound questa questo linguaggio perché si annidano fra i peli del cane e decidono chi è democratico ma e chi no. Ma quante ce ne sono di zecche rosse? Una troppe. In Italia tante centri sociali per quanto mi riguarda, i centri sociali occupati abusivamente, lentamente, tutti con calma, rosse. Con le buone maniere vanno sgomberati. Pubblicità, torniamo subito per l'ultima cosa, parliamo un po' di Milan, però sempre la politica che parla. Non mi hai detto questa cosa di Montari, questa cosa di Montari sicuro. Di Zaia non me l'hai detto, però se perde. Ma Zaia non perde, cosa vuol dire? Se ti dimetti, facciamo il patto. Se Zaia ti dimetti da leader della Lega il giorno dopo, Zaia dimmelo, non perde, sì o no? No, ma io mi dimetto se Zaia vince. Padani a tutti. Allora ragazzi, per finire questo discorso tuttosi eccetera, ma sì? Dal punto di vista tecnico, Parenzo. Ah sì. Signor Rom, buongiorno. Che? Sì. Ma dai, che sull'uso c'è? Del rame. Si sente discriminato. C'è un mio amico Rom che vuole chiedere a Salvini perché li odiate così tanto. Ma li considerate feccio? Mio amico Rom che mi telefona. No, feccio l'ha detto sia buon anno. Sia buon anno. Lei non li chiama feccio. Beh, immagino che sia d'accordo, no? No, no, no, non dire che tutti sono ladri, no, e troppi quanti? Rom quanti? Sono ladri, quanti? Tantissimi tanti, sono ladri, 99%. Tutti no, ma non lo so, non sto lì a fare il bilancino, più o meno, so più che meno. Quando vado a visitare i campi Rom, che peraltro paghiamo noi, sì, trovo macchinoni, TV color della Madonna, orologi, telefonini ultimo modello, delle casette, non i campi, le caselle e la tela casetta, come hanno fatto a Venezia, come ha fatto a Venezia a Cacciari, è geniale dargli le casette, ha fatto delle casette con riscaldamento, l'acqua, luce, il gas, e loro pagano a carne, scusami, stato italiano a Venezia. Però scusa, mi devi dire, sì, non voglio essere troppo salviniano, però io gli dico una cosa e lo ripeto più volte a prescindere dalla presenza di Salvini, ma perché e l'ho detto anche l'altro giorno, sono stato a pranzo con la signora Pavlovic del... No, sono stato a pranzo con la signora Pavlovic, io la Diana Pavlovic è un amico comune, lì sei andato per altro, lei era è molto timorosa, io gli ho detto scusi signora Pavlovic, gli ho detto lei è simpatica, noi che non odiamo nessuno, no, io gli ho detto, no, io gli ho detto signora Pavlovic, perché i signori Rom, i suoi amici Rom, lei ha avuto un percorso normale, cioè ha trovato lavoro, si è sposata, figlio, tutti come così. Affitta la casa, vado da un'agenzia, allora io perché, cioè perché la casa, tu dici bisogna dare la casetta, uno prende l'agenzia, cioè i giornali, va a un'agenzia, punto, guarda che non gliela affittano, no, se tu affitteresti la casa, tu hai Rom, tu la tua casa la affitteresti a Roma, Matteo, a parte che non ho case da affittare, vabbè, ma avessi una casa la affitteresti a Roma, dipende, no? Ma anche come quella storia di Bologna che due si sono lamentati, siamo islamici, non ci affittano la casa, esatto. Uno sarà libero di affittare la casa a chi cacchio vuole, infatti Cruciani non mi piace, secondo me non mi pagano, gliela affitto, certo, ma se arriva il Rom cencioso con quattro bambini che usa così. I semafori, no, spesso, se mi arriva, beh, diciamo che l'immagine del Rom che abbiamo per Milano non è esattamente di quello, ma che va in ufficio alle 8:30 della mattina, a due islamici di cui la donna col velo che si presentano a casa tua, l'affitteresti la casa o no? No, diciamo la verità, no, non l'affitteresti, uno deve essere sincero, la donna che porta il velo non piace. Non ti piace, non ti è simbolo, capito, di oppressione. Va. Se viene con la minigonna va bene, invece, non ho capito. Ma che ne so, io non mica gli chiedo se sei islamico o non sei islamico. No, ma ammesso, ho capito, non concesso che avessi una casa da affittare che non ho, perché no, non posseggo la seconda casa. A tutti noi tre ci può piacere di più la minigonna del velo e siamo va bene, però quello il velo è un gusti, simbolo, no? Di oppressione. È un simbolo di prigionia. Ma se quella se lo vuole mettere, amico mio, vai a affittarla dall'altra parte. In Italia va proibito. Ma c'è chi si mette la Porsche verde della Lega, uno deve andare in giro a volto scoperto, a volto assolutamente scoperto. Qualcuno dice che tu hai detto Zaia vince. Allora vietano anche la Madonna. Allora vietano, come dice Sgarbi, la Madonna. Ma dai, la Madonna, la Madonna non no? Abbiamo mai avuto grossi problemi di ordine pubblico in Italia. Le suorine, le suore non no, vanno suorine in giro a tagliare le gole, fino ma a prova contraria. Anche le donne islamiche col velo mica vanno in beh, giro diciamo a tagliare le gole. Che qualche islamico col velo o senza velo, qualche problemino in giro per il mondo lo sta creando, purtroppo. Senti, ma Zaia vince anche se Gesù Cristo è l'avversario, l'hai detto? Se anche se viene Gesù bambino. Se viene Gesù bambino, Zaia vince lo stesso. Ma sì, perché i tu adesso mi devi promettere qua gente che concreta. Ti dimetti domani ancora, ma... se Zaia non vince, se a maggio Zaia non vince io mi dimetto, ma non posso, a parte è impossibile, io... un'ipotesi irrealizzabile, esatto, ma tu come il Milan vince lo scudetto, no, ma è consideri difficile. La Moretti una no beh, io così è per quello, gli avversari li rispetto, ma in questo momento di crisi ma perdere economica, con la Moretti che sarebbe, cosa significherebbe ma figurati una catastrofe ma no, la Moretti termonucleare la conosco bene, i veneti anche di sinistra, c'è gente di sinistra che dice piuttosto di votare la Moretti voto Cruciani, no, beh, sono Cruciani. Però la forza di Zaia è quello che ha fatto, non quello che promette che farà, quindi è quello, io sono tranquillo per quello, perché hanno fatto tante cose. Sai chi c'è due piani più sopra? Chi c'è? No, un tuo amico, signor Napoletano, il direttore del Sole 24 Ore, che secondo me di economia non capisce tantissimo. Ti prego. No, non lo dico, ti prego. Vi metto in difficoltà. No, ha parlato, in difficoltà. Ha parlato Keynes adesso. Però c'è una differenza. Io riconosco i miei limiti e cerco di circondarmi di persone competenti. Vabbè, dai, quello è il direttore del Sole 24 Ore, ma ci capirà di economia, dai, adesso. Non mi fare rispondere per forza a difendere. Difende alcuni grandi interessi, sicuramente. sicuramente no, il direttore dai, del giornale Confindustria vero, difende gli interessi della grande industria. Ma difende anche la piccola industria, difende anche i piccoli Confindustria difende i piccoli imprenditori. Ma anche i piccoli imprenditori. Battutona, battutona. Ma anche i piccoli imprenditori, dai, non mi fare rilevare il difensore adesso perché ti ho fatto la battuta che due piani sopra c'era ma come, Napoletano. Ma dai, scusa, ma come uno che difende... Ma comunque, l'euro, devo dire la verità, lo sai che cosa ho detto io? Al di là del merito, vabbè, l'euro adesso c'è un sacco di gente che lo difende, dai. Ma i grandi imprenditori sì, i piccoli e medi imprenditori no. Anche i piccoli, comunque devo dire la verità. E lo sai che il merito che è stato di Napoletano, io veramente te lo volevo dire, a me ha combattuto con te. Cioè uno in televisione, questo rendi merito a questa cosa, ha combattuto come un leone. E sui temi. Ha attaccato. Ma io questo glielo... No, sarà più competente di te, o no? Su questo glielo riconosco, perché di solito quelli che, fra virgolette, questioni iniziano leghista, razzista, omofobo, fascista, delinquente. Ha battagliato con ma te. Io battaglierei volentieri sulla flat tax, sugli studi di settore, sull'euro, sulle partite IVA. Tu gli hai detto che protegge i grandi interessi, quello giustamente che fa il direttore del Sole 24 Ore, dove ci sono un sacco di piccole e medie imprese che fanno... Diciamo che è più vicino a Marchionne probabilmente che... Ma non è vero, guarda che Marchionne se n'è andato da Confindustria, Ma se n'è andato dall'Italia proprio Marchionne. Ha fatto bene secondo me con le tasse, o no? Ho fatto male a prendere la residenza fiscale all'estero. Il sistema fiscale che c'è in Italia, chi può scappare scappa. Ed è giusto che io ritengo, e fa bene, perché uno che fa impresa difende il suo diritto a guadagnare. La aliquota fiscale al 15% riporterebbe in Italia tanti e tanti imprenditori. Quella è una stronzata, Parenzo. Vuol dire che non si può, perché c'è una cosa che si chiama tassazione progressiva in base. E certo, quindi se non guadagni si può di fare, più il 15% su un milione di euro è più del 15% su 1.000 euro. Io sono d'accordo con la flat tax, bisogna cambiare la Costituzione. C'è modo di rimettere la progressività in un altro modo. Il problema non è quello. Io sono favorevole. Ma non è vero. C'è un sacco di paesi. Costa un sacco di soldi. La flat tax i Rom ce l'hanno già applicata al 2%. Pagano il 2% fisso sui redditi. Sui redditi, peraltro, non dichiarati. Quindi. Ma da un punto di vista della logica, spiegato in 40, ti sembra normale che Marchionne, che non paga neanche le tasse qui, mettiamo, paghi la stessa tassa mia? Ma di tu che cavolo quanto... stiamo parlando? Agli ascoltatori della Lega in ascolto, domanda. Voglio dire, cari ascoltatori della ma Lega, il problema è che oggi culo, il milionario non paga. Oggi chi dichiara più di 200.000 euro in Italia è lo 0,2%. Spiegamelo ai tuoi elettori che tu vuoi far pagare le stesse tasse di Marchionne a quello con le pezze al culo. Uguale. Il 15% pagare meno per pagare tutti. C'è la fila per pagare le tasse. Costa molti soldi, costa molti soldi. Secondo me è a pari. Ai due economisti che sono a Milano, ma che sembra normale? Ma parla col professor Rabusca che l'ha inventata, non con Salvini che è l'ultimo degli scienziati. Professor Rabusca, amico mio. Ma adesso un attimo, adesso. Ti sembra devo discutere di economia con Parenzo o col professor Alvin Rabusca, preferirei parlare col professor Alvin Rabusca. Sto cavolo di Rabusca mi deve spiegare a me, che sono uno del popolo, perché Marchionne deve pagare le stesse tasse di quella sciura del cazzo che chiama Radio Padania e cucina la polenta. Devono spiegare perché? Ecco l'economia spiegata. Ma non c'avevate l'ambulanza una volta per andare a ricordare? L'asciura di perché Radio Padania che porto... fa la polenta taragna deve pagare le stesse perché tasse se di io porto perché? Tanti Marchionne a pagare le tasse in Italia, l'asciura non le paga. Ma Marchionne le paga già in Svizzera. Dobbiamo arrivare alla conclusione di questa puntata. Mamma mia che fatica. Allora, leader Berlusconi dice che dopo la soluzione vuole i suoi, soprattutto dicono che sarà il nuovo leader del centrodestra. Non sarebbe tornare un po' indietro? Sarebbe tornare indietro. Cioè, Berlusconi ha tutto il mio rispetto per quello che ha fatto, per quello che farà. Come leader ma come possono dire il nuovo leader del centrodestra? Berlusconi può essere importantissimo nel definire il nuovo centrodestra. Non può più fare leader. Ma diciamo può giocarsi la partita. Io gli auguro di avere fortuna e tante altre vittorie, però io guardo avanti. E dunque Berlusconi non può più essere leader del centrodestra. Oggettivamente lo sanno anche i suoi, o no? Ma se gli elettori volessero, io sono per le primarie. Quindi se uno dicesse innanzitutto cos'è il centrodestra, quali sono i progetti, io vorrei mettere in piedi un progetto. Ma in Veneto Forza Italia è con Berlusconi alla fine, è con voi o no alla fine? Forza Italia ha detto che sostiene Zaia. Sostiene Zaia. Per cui ci sarà Forza Italia, la lista della Lega, quello che c'è sabato, oggi è giovedì, c'è sabato il consiglio della Liga Veneta, visto che per il Veneto decidono ma, i veneti. Ma alla fine che questa tessera che è fatto? È decaduto, che vuol dire Tosi? Che l'avete espulso? Sì, è espulso. No, che non ha più la tessera della Lega in tasca perché ha fatto altre scelte. Ma perché gliel'avete tolta voi? No, non sono andato fisicamente perché uno decade, cioè c'è come l'albo dei giornalisti, se non rinnovi l'iscrizione decade. Decade, no, è strano questa cosa della decadenza, cioè non è espulso formalmente, sì, l'avete espulso. Espulsione, diciamo la verità. Si potrebbe iscrivere di nuovo, però. Ma no, scusa, se ha scelto un'altra formazione, ma se ha scelto un altro percorso politico, per cui gli faccio gli auguri. Non è che la Lega è un tram, salgo, scendo, salgo, se scendo. Si ripresenta, dice Ribus e ci salve, sono Flavio Tosi. Lo mando da te, così ne parlate voi due. Io gli do la tessera di Italia Nazione Rom, che è la tessera che ho. Tu hai la tessera di Italia Nazione Rom. Tientela. Ma io voglio capire una cosa, ma l'antifascismo, secondo te, siccome ti sei messo con Casa Paola, è finito? No? Ma è come l'anticomunismo, è una roba vecchia, ma è una roba da libri di storia. Se uno va in piazza grido di sono antifascista, sono anticomunista. Anche se uno è fascista, anche se uno dice sono fascista. Ma uno per me può essere fascista, comunista, non è importante. Interista, milanista. È uguale, per te fascismo e comunismo hanno la stessa. Uno deve, per me. Hanno commesso per me gli stessi crimini. Se andiamo a guardare i numeri, qualcuno ne ha ammazzati di più. Stalin ha fatto più danni di qualcun altro. Cioè, diciamo che la Costituzione. Poi la storia la scrivono i vincitori. Parenzo, basta con questa storia. Ma secondo me è un dibattito vecchio. Non tornerà nel fascismo del comunismo. Non se ne parlava. Fino a che non ti sei alleato con Casa Pound. Alleato, sono venuti a parlare perché condividono alcune nostre battaglie. Dicono che siete alleati. Condividono alcune nostre battaglie. Ma magari entrano in qualche lista. Ma se arriva con un movimento di sinistra a dire io condivido le tue battaglie, io faccio parlare anche lui. Per te è uguale. Certo. Parenzo, cioè, c'era una, no, ma infatti sul palco io sono andato lì a Piazza del Popolo quando Salvini ha parlato a nome degli esodati. C'era una di Sel, una signora di Sel, una di Sel che errori drammatici, perché voglio dire esistono i gatti neri anche a sinistra, però ma si ragiona sui progetti del 2015, non sui fascisti e i comunisti. Se uno che ti dice sono mussoliniano ti imbarazza un po', il capo di questi qua ma dice sono mussoliniano, non te ne frega ma niente, mi incuriosisce perché non torna Mussolini, ma come se uno mi dice sono per la rifondazione del comunismo, mi incuriosisce. Perché uno che pensa di rifondare il comunismo mi incuriosisce. Come un mezzo matto. Mi incuriosisce, mi stimola. Come un freak. Io amo la storia, studio la storia. È come se uno mi dicesse torna al Duce. Non torna al Duce. Speriamo di no. Allora, senti, però il Milan. Allora, tu ti sei battuto contro. A parte la cosa di Muntari. Vabbè, Muntari, un immigrato che non lavora. È una battuta. Però te la sei presa solo con Muntari. Ma tu l'hai visto giocare Muntari l'altra sera. Cioè, è imbarazzante. Ma mio figlio giocava meglio. Vale, tuo figlio, dai, Muntari. Muntari. Ma poi avete pure, milioni di euro che prende. Avete pure rischiato che tornasse in Ghana, dici te. Ma scusa, gli hai detto torni in Ghana praticamente, gli hai detto. Ma come? Cioè, io dico che gli immigrati inseriti e che lavorano bene sono i benvenuti. Muntari l'altra sera lavorava male, è il suo lavoro, lavorava male in campo. Non puoi fare un rigore cioè, quel genere lì. Ma io tornerei ai tre stranieri, guarda. Io rimpiango Gullit, Van Basten e Rijkaard. Peraltro Gullit e Van Basten non erano ariani. Quindi no, ma voglio tre stranieri europei magari e non tre non stranieri extra basta, uguale, no, tre chi stranieri. Se ne frega, tre stranieri e otto italiani in campo, meglio tornare. E se ci si è messo di mezzo pure il signor Balotelli, dicendo che lui farebbe politica meglio di te, meglio di te. Facciamo le primarie. Una volta era pure accusato di simpatie leghiste una volta Balotelli. Sì, no, no, spero, mai. Di no. Spero che non è il mio modello di vita. Di vita addirittura. Vabbè, adesso perché è un po' ricco, spende un po' di soldi la no, Ferrari. Ma io glielo invidio quello. No, è che è maleducato. Solo i soldi a Balotelli, sì, i soldi, sì. Beh, io non ho timore di dirlo, avessi i soldi di Balotelli sarei... no, faresti un'altra cosa, dici, non staresti. No, no, farei, però sarei felice, insomma. Senti, ma Inzaghi va cacciato? Dai, su. Sì. Lo dico con la morte nel cuore perché io ero il primo tifoso di Inzaghi in campo e quando è arrivato in panchina al posto di De Allegri ho stappato lo spumante. E lo so, appunto, che solo tu sei stato tra quelli che ha punito anche. Riconosco l'errore, cioè non riporterei indietro Allegri perché non mi piace. Non ti piace, vabbè. Però Inzaghi ha una squadra penosa. Sottomano, penosa, imbarazzante. Però, anche lui, però, non lo vedo molto presente durante dopo i 90 Allegri, minuti. Attenzione perché poi Allegri se ne andò. Poi porto la sfiga, sentenza no. di Salvini Picco anche Inzaghi. Io, quando sono andato ad Atene, ho visto i due gol di Inzaghi, ho perso la gola e la voce e me lo ricorderò per tutta la vita. però in panca non è fortunatissimo. Senti, non ti voglio chiedere nulla della vita privata, perché non ti chiedo nulla nella vita privata, ma è vera questa storia? Sarebbe una follia o no questa storia che vado ciao ragazzi, ciao ragazzi, un bacione ciao caro, ciao. Amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Sei ancora a casa, Simo? Andate per una fanculo e finisce la questione, insomma. Vabbè ragazzi, andiamo con Marco D'Alecco, vai Marco, vai. Ciao Crucio, ciao, dimmi, sono stato a vederti una volta a Sunflower. Ascolta un attimo. Dov'è che mi hai visto? Dov'è che mi hai visto? L'ho visto a Sunflower a Lecoli, sul lago di Lecoli, sotto all'imbarcatura. Ah, ma anni, cosa sei andato a fare? No, sono andato a presentare a parlare di un libro, dai, su, tanti anni fa. Vai, dimmi. Ascolta la roba. Io, a parte che sono innamorato della Boldrini, l'ho mandato un po' di messaggi. Anche come sei innamorato della Boldrini? Scusami, spiegami. Lo so, è un mio sogno erotico. Cioè, hai come sogno erotico la signora Boldrini, signor Marco? Sono un po' sadomaso, però. Sono sogni erotici sadomaso, non sono proprio rapporti normali. Ma questo è interessante, però, Parenzo. Più interessante forse di Salvini. Cioè, Marco, no, sto scherzando, mica per Salvini, sto dicendo in generale, come argomento, no? Proprio te ne presenterò un altro di argomento molto significativo. Molto significativo. Hai combattuto, però, su Napoletano, No, David? Su Napoletano, sulla tassa. Hai combattuto anche, hai combattuto come un leone. Sì, no, ma sulla tassa ho provato a spiegare l'economia in modo molto semplice. Vabbè, cioè, allora, signor Marco, io voglio capire perché no. Chi è? Non è Marco, aspetta, che mi è caduto qua il. Marco, sì, Marco. Scusami, Marco. Tu hai come sogno erotico. Un bastardo leghista io. Non ho capito. Come sogno erotico hai la Boldrini. La Boldrini come sogno erotico. Sogno erotico. Sì, giusto? Fantastica. Perché, ma perché? Che cos'è che ti appassiona? Ma c'ha un portamento da mazzone, da cavallerizza. Vedo bene con gli stivali neri, il frustino. Poi, tra l'altro, lei fa tutta. Come si può dire, fa tutta la santarella anche col fatto di dare della desinenza femminile alle persone, che bisogna rispettare la sessualità. I gay poi si accompagna con uno di 10 anni di meno, quindi c'ha voglia di sesso, e il suo compagno 10 anni di meno, quindi lei fa tutta la santarella, no, ma c'ha voglia. Scusami, c'è non voglia è che, sessuale. Però, scusami, adesso Marco, va benissimo, questa è la zanzara, è la zanzara, uno è un malato erotomane. No, ma perché è malato erotomane? Scusa, io volevo parlare anche un parente dopo, volevo dire una cosa anche a parente. No, ha ragione, ma ti assicuro, Marco, ma rispetto a tutti quelli che ascoltano, ogni tanto io dico che chiama qualche pazzo, qualche scriteriato, qualche nazista, ma anche qualche erotomane. È un matto. Ma scusa, ma perché? Ma se quello c'ha la fissazione erotica con la Boldrini, facciamogliela sfogare questa fissazione erotica. Va bene, ma è follia che chiami per dirlo al Sole 24 Ore. Ho capito, ma questo, ma questa è la zanzara. Chiami in radio, ma non è vero, ma non è so io. Ma scusa, ma se quello gli piace la Boldrini e ha le fissazioni erotiche della Boldrini, che deve fare? Che è un erotomane, ma perché è un erotomane? È uno normale. Uno certe cose se le tiene per sé, la dice un amico. Che guarda la Boldrini, che si attende la cavallerizza. Ma non è un normale. Adesso però sfatiamo il mito che lei è uno normale. Perché uno normale. E ovviamente la zanzara è la trasmissione giusta. Bravo. Per sfogare anche. Dove lo può dire? Dove lo può dire, Marco? Dove lo può dire questa cosa qua? Alla zanzara o a Radio Radicale? Ma a Radio Radicale, sì, adesso non esageriamo. A me la Radio Radicale, però. Però è più la zanzara. Però scusa, 30 secondi. Parenzo, dove lo può dire? Signor Marco da Roma. Signor Marco da Roma, no? Da Lecco. Scusa, che è fissato con la Boldrini, no? Perché lui sicuramente dice... nello spazio che ha Barisoni, sicuramente no. Sicuramente anche dal signor Milan, no. Sicuramente anche dal signor Carruba. E infatti ha detto chiama la Zazzara. Allora, Marco D'Alecco e le sue perversioni. Marco, allora... Marco, ma diciamo che sì, ti sento. Allora? Ma che hai fatto? Hai fumato allora, stasera? Che hai fatto? No, io ho fumato, cioè io sono normale così, per me è ben... Ma che ne so, hai la voce, sembra che hai fumato, ti sei fumato due o tre canne, giusto? No, l'idea, ma io no, sono questo. Un po' un cavernista, ho una voce perché ho i polipi nel naso, dovrei essere operato. Che c'hai nel naso? I polipi che mi bloccano tutto il naso mi rendono tutta questa voce gutturale. Ma che fai? Ti fai le strisce di cocaina, no? Mi faccio questo, non mi sono mai drogato in vita mia. Meno male, meno male. Allora, no, no, tra cui una voce così. Bene. No, io ho delle fantasie un po' switch, no? Sai, gli switch sono quelli un po' sia sadici che masochisti. Cioè? Per dire, la Boldrini non la vedo bene su un cavalletto di legno con un foulard, tipo quelli delle musulmane, e io la frusto con davanti un gruppo di ragazzi di Casa Pound che fa da pubblico, che la guarda, che soffre mentre la sto frustando. No, però adesso, Marco, adesso stiamo andando, è pur sempre il presidente. Credo sia è pur normale, sempre il presidente però, della Camera. Magari adesso, sono Marco. Sbagliato no, io. Ho capito, ma le fantasie adesso non pensavo che arrivassero fino a questo punto addirittura. Cioè, ah, no, scusa. No, va bene tutto, però. Figuriamoci, c'è il problema. Se vuoi posso cambiare argomento, fare una cosa più tranquilla con Paolo. No, basta che non passi, ma no, io sono tranquillo. A me no, basta che non passi il principio che la normale sono io. No. Solo questo vorrei. Vorrei passasse il principio che la normale non sono io. Abbiamo capito questa tua fantasia, che però, francamente, è una fantasia un po', cioè, vuol dire, poi esagerata. Non perché sia la Boldrini. Ma adesso domanda. Ma non è solo Sadomaso, addirittura hai messo in mezzo Casa Pound. È pieno di sti locali, cruciale. Vabbè, ma che c'entra adesso la Boldrini con sti locali? Vabbè, comunque lasciamo perdere. Le Boldrini le farai con le moldave, le rumene, con qualcuno che fa anche te. Cose, no, io non le faccio, però vabbè. Vi riconoscete? Allora, che volevi dire? Dai, che volevi dire? No, parlo di una cosa un po' più tranquilla con Parenzo. Cioè? Allora, io con Parenzo non sono d'accordo su niente, perché io sono un bastardo leghista, lui di sinistra. Però c'è una cosa che secondo me è d'accordo con me. Lo stupirà dopo le prime riflessioni sessuali che ho fatto. Cioè? Voglio dire di quel signore napoletano che ha violentato il bambino. Sì. Adesso tutti giustamente danno addosso a questo. Beh, certo, allora... una cosa veramente incresciosa, incivile. Però volevo sapere cosa pensa la gente del povero bambino che ha subito queste cose. Adesso che deve pensare, scusa, che deve pensare che è una vittima e basta. Fra 20 anni, è una vittima che fra 20 anni per le statistiche diventerà probabilmente un pedofilo che ma chi l'ha detto? Ma quali sono? Ma le statistiche prese dove, Marco? Le prese dove queste statistiche? Le statistiche dicono che la maggior parte meglio che si occupi dell'altro tema, violenza, diciamo, diventano a loro volta pedofili. Bisogna avere compassione anche per quelli che sono pedofili, che a loro volta sono lei stati. Lei mi sembra più competente sull'altro tema iniziale. Sensibilità, lo so che ce l'hai. Quale sensibilità? Scusami, Marco, quale? La sensibilità di rispetto anche nei confronti di chi ha commesso un crimine orribile. Quello no, rispetto nessuna. Ti assicuro che non ce l'ha. Non si preoccupi. Non vorrebbe soffocarlo o murarlo vivo col cemento, perché... Però non c'è nessun rispetto. Potrebbe essere quello. No, ma probabilmente non da bambino anche lui avrà subito una violenza. Ma chi? Cioè, chi ha subito? Cosa dire. Chi? Il pedofilo a sua volta. Ma non lo so. Quali sono le statistiche? In questo momento non mi interessano. Francesca da Bologna. Ciao, caro, ciao. Ah, dai, dimmi. Sì, salve. Senta, volevo dire, visto che si parla tanto di gay... Sì. Non ne parlavamo da giorni, è uscita fuori questa cosa di Dolce Gabbana di oggi, allora ne abbiamo del Parlamento Europeo soprattutto. Vabbè. Parlamento Europeo, queste cose qui. Allora, beh, Francesca, dimmi, dai, vai. Beh, praticamente quello che sto leggendo, scoprendo, è che ci sono delle sostanze ormai in circolo nell'ambiente che sono gli interferenti endocrini, che si trovano sia nei pesticidi. No, non ho capito bene, scusa. Allora ci sono delle sostanze. Si chiamano interferenti endocrini, ormai circolano nell'ambiente. Interferenti endocrini. Quali influenza hanno? Hanno un effetto su, diciamo, lo sviluppo poi dell'apparato genitale maschile o femminile, in particolare quello maschile. E dunque in qualche modo pare che abbiano un'influenza sul fatto che ci siano più persone, diciamo, ibride, non più così, diciamo, maschile. E da chi sarebbero messi in circolo queste sostanze? Sono delle sostanze che servono soprattutto per, diciamo, rendere la plastica un pochino più resistente. No, non ho capito da chi sarebbero messi, cioè c'è un piano per mettere in circolo queste cose? No, non è un piano, nel senso che è una cosa che si sta scoprendo adesso. Cioè, non ho capito, secondo te, scusami, ci sono prodotti chimici nell'aria, eccetera, eccetera, che fanno aumentare il numero di omosessuali? Beh, questo è, diciamo che gli studiosi stanno dicendo di sì, magari se... No, ragazzi, io non ce la faccio, Parenzo, Parenzo, fai qualcosa tu, ti prego, alza la voce, di qualcosa, alza la voce, prodotti chimici che causano omosessualità. No, sono caduto, disarmato dalla voce gentile della signora Francesca, disarmato dalla gentilezza. Ma magari ha ragione lei, ci sono dei prodotti che provocano interferenze sessuali. Non so che dire se non pubblicità. Andate a informarvi. Andate a informarvi. Pubblicità. pubblicità. Vabbè, andiamo a informarci, vabbè. Prenda atto che ormai è tutto finito. E poi sono arrivato alla pubertà ed è andata anche peggio perché il mio pene non è mai cresciuto. Insomma, ero dotato quanto un bambino di 3 anni. No, sul serio, quelli lì hanno dei peni da rinoceronte, enormi. Ho sentito dei neri lamentarsi perché non gradivano lo stereotipo. Dio, come mi piacerebbe avere uno stereotipo come quello. Stern nel film Private Parts sulla dimensione del suo pene. Perché ti ho mandato in onda questa cosa, Parezzo? Tu non sarai... è la tua biografia. No, non è la mia biografia. Infatti qualcuno ha pensato fosse... Non è la mia biografia, quella del pene piccolo, te lo posso assicurare, ma non faccio qui una... Questo non credo. Non sto facendo una difesa delle mie misure, uno spot delle mie misure, non me ne frega niente. No, sì, ti prego, caro Jacopino, aspetti un attimo. La questione è questa: c'è un ingegnere inglese che si chiama Ant Smith. 20 e 37, squizzi in macchina, certo. Era in macchina anche prima, quando c'era Salvini. No, oggi è salito alle 24. Ant Smith, ingegnere inglese, che ha scritto un poema per raccontare com'è vivere con un pene piccolo. Ti giuro, ho combattuto contro l'ansia. Ma per te com'è? No, ho combattuto contro l'ansia per decenni. No, ma io tu non personalmente, abbiamo una no, devo dire diretta. La verità, non ho questi problemi. Ma anche no, ma non voglio dire nulla. No, scherzo. Ma semplicemente perché questo qua, beh, siamo a livelli pare molto molto piccoli, questo signore Ant Smith. Ho 48 anni, ho combattuto contro l'ansia dovuta alle mie dimensioni per decenni. Sono drammi, anche se sono felicemente sposato. No, quelli sono drammi. Gli uomini hanno una grande capacità di negare le emozioni, gli uomini, fino a che non siamo messi di fronte alla nostra parte più vulnerabile, facciamo finta che non esista. No, ma quelli sono drammi. Per me, quelli sono drammi, lo stai dicendo anche personalmente, dici no? No, dico che sono drammi. Immagino, tu hai questo problema? Hai combattuto? Non mi risulta, poi anche chiedere in giro, ma non. Per me è arrivato una sera in cui parlavo. Sono drammi. Senti, per me è arrivato una sera in cui conosco parlavo. Conosco tanti leghisti che hanno sto problema. No, dai, leghisti col pene piccolo, no? Sì, dai. Tantissimi. Ma se no non faresti tu sempre sta campagna del cielo duro. Cioè, anche di sicanalitico. Cioè, tu dici quelli anche che fanno la campagna sul celodurismo, ma senza ombra di dubbio, alla fine hanno il cazzo piccolo. Ma chiedi a qualsiasi psicanalista. Vabbè, non è che sono io che sono antileghista, ma immagino. Comunque, questo qua dice che a un certo punto, in un discorso con un suo amico, è uscito fuori il discorso della dimensione. Ho ammesso di avere qualche preoccupazione al riguardo. Ero ubriaco, non riuscivo a mentire. Ho rivelato il mio segreto. E dire questa verità è stato veramente liberatorio. Ma poi alla fine, questo quanto era lungo, questo qua? 10 centimetri scarsi, ovviamente non a riposo, 10 centimetri scarsi. Sai che in India c'è stato l'ennesimo rinvio per i Marò, no? Tanto 10 centimetri scarsi. Ma ha fatto anche un poema fantastico, senti, lo faccio sentire, poema meraviglioso, senti. No, va bene. Senti. I have a tiny cup, like a crooked little finger. Everybody else's dicks are inevitably bigger. If 6 inch as an average can truly be believed, someone here in this room is twice the size of me. Cioè lo paragona a un'unghia, capito? Finger. Pazzesco. Sono drammi, eh. Ho combattuto contro l'ansia per decenni. E come non fare la grande inchiesta? È anche un sondaggio di Libero, ovviamente, no? Le grandi inchieste della Zanzara. Cari ascoltatori, confessateci anche voi se avete questo problema. Confessateci anche voi, perché no? Ecco, ci mancava. No, Freccero, come no? Come no? Marco da Roma, vai Marco. Marco, sono io in realtà da Ciampino. Dimmi. Beppe, tu come sei messo là? Come sei messo? Ma abbastanza bene, poi sono siciliano di nascita, quindi. Ma che cazzo c'entra che sei siciliano? Scusa, non ho capito. Adesso spiegami sta cosa, non è che i siciliani hanno dimensioni più ragguardevoli, di che stiamo parlando, dai? Ma siamo più vicini agli italiani, allora? Sai, allora? Quindi, no, senti, ti volevo dire, poco fa Parenzo mi ha fatto girare lo stomaco quando ha detto una cosa. Cioè? Ha detto pure del traffico sul Grail, pure tutto bloccato, ma adesso sera. Vabbè, allora? Cioè lui non può dire che i passeggiatori abusivi sono innocui. Questa è gente che sfrutta sfrutta il nostro stato. Ma sfrutta il nostro stato, non esagero. Ma guarda, a me mi stanno sul cazzo pure i parcheggiatori abusivi. Ma te lo spiego, questi non dichiarano nulla. Vabbè, ma quello è chiaro che non dichiarano, sono abusivi che dichiarano. Non pagano l'asilo, non pagano le tasse. Non pagano nulla, è vero, non pagano nulla. Non pagano nulla. Io guadagno 1.000 euro al mese. Loro pure, e io però devo pagare tutto, e questi me li definisci. No, hai ragione al 100%. Guarda, mia moglie, ti dico una cosa: mia moglie lavora all'ASL, si alza alle 6 del mattino per essere lì. Sì, questi arrivano e hanno diritto a tutte le cose, ridono pure, ridono in faccia pure a mia moglie e fanno vedere i loro orologi, e tu mi dici no qui. Bisogna trovare una soluzione per questi posteggiatori abusivi, non è più tollerabile. Io li eliminerei tutti l'abusivi. In altri paesi non esistono, gli parcheggiatori. Se vogliamo essere seri, non riesco a dargli contro, perché alla fine mi fanno quasi bene i parcheggiatori abusivi, stanno lì, però non quelli che usano violenza, però non, alla fine vanno eliminati pure quelli, prima o poi ci sarà un repulisti, no? Oh, ragazzi, vi siete dimenticati di quello? Vediamo un po' se lo pizzichiamo. È Paolo Giallorenzo, quello che si è presentato di fronte a casa di Berlusconi e poi ha insultato, ha dato il comunista schifoso a Bertazzoni. Si può dire, no? Della merda a Travaglio e Santoro. Vediamo un po'. Telefono, telefono, vai. Pronto? Giallorenzo? Sì. Sono Cruciani, Radio 24. Ciao. Ciao, come stai? Bene, caro. Senti, ma che ti è venuto in mente ieri di andare là a dire quelle cose lì a Bertazzoni, a Travaglio, a Santoro? Provocatori nati. Chi? Loro? Almeno, sì, loro almeno fossero simpatici come voi, ma loro invece sono proprio... Ma gli hai detto a quello comunista schifoso, eri incazzato nero. Sì, vabbè, io gli ho detto niente di male. Ma come comunista detto? Schifoso? Comunista schifoso, merda, Travaglio. Cioè, voglio dire, è rimasto lui, Pol Pot e... Lui chi? Lui chi dici? Lui, Santoro, la triade dei comunisti. Però a parte che Pol Pot è morto, diciamo, no? Speriamo che il comunismo muoia definitivamente, no? Che sta gente impari un pochino a rispettare anche gli altri. Però scusami, Berlusconi dentro al letto un po' fa niente, insomma, no? No, vabbè, ma lasciamo perdere Berlusconi, le cose di Berlusconi. Ma tu sei andato sotto là a Palazzo Grazioli, a parte che non c'è un cazzo da fare, vai sotto Palazzo Grazioli. No, come c'è un cazzo da fare? Ci sono andato a fare un sacco di cose. E appunto, e com'è che stavi là? Perché... Normale, perché era la festa del presidente, che è il primo giorno che rientrava da uomo libero, lo siamo andati ad acclamare, mi sembra una cosa più che buona e giusta. Vabbè, ma ognuno poi fa quello che vuole. Però io dico una cosa, sei andato lì, hai detto comunista schifoso a Bertazzoni, merda a Travaglio e Santoro. Sì. Eri proprio incazzato nero. Sì, proprio incazzato nero. E spero di non incontrarlo né a Santoro né a Travaglio. Perché se incontri Travaglio e Santoro che fai? Gli metti le mani addosso? No, sì, mi ho pure a sporcare le mani. Gli parto di capoccia. Appunto. Gli parto di capoccia. Ma che roba è? Ma perché sei così avvelenato con Santoro e Travaglio? Spiegami. Sono faziosi, perché non mi piace questo tipo. Io sono un'altra persona vittima di giornalisti faziosi. Che qualcuno dice il contrario. Qualcuno dice il contrario. Tu sei la macchina del fango. Però lasciamo perdere questa cosa. Voglio dire, io sono stato pure carcerato, non è che ho problemi a dire quello che mi è costato fare il direttore di Ciarrapico, quindi a me non mi vergogno di dire queste cose, perché io l'ho fatto sempre con massima lealtà, perciò io mi auguro soltanto che mi facciano i processi, mica so come tanti altri che si scappano, io aspetto che mi processano. Vabbè, hai dei processi in corso per estorsione, per varie cose, vabbè, lasciamo perdere queste cose. Sì, certo. A qualcuno hai scritto è meglio morire di cancro che avere un nemico come me, come mai? No, non gliel'ho scritto questo. E come no? L'ho detto in faccia. Ah, gli hai detto in faccia direttamente? Sì. Perché se uno ha un nemico come te, che fa? Ma no, sono quei momenti quando uno discute, ma insomma, poi alla fine sono un bravo ragazzo. Beh, insomma, bravo ragazzo. Ma com'è che nel tuo profilo là da qualche parte c'è scritto Mussolini? Sei un po' fascista, diciamo. No, io sono fascista. Sei fascista. Beh, lo dice così. Sei fascista. Fascista del ventennio. Fascista. Io sono, diciamo, di quella la. Ma scusami, ma ti pare che è una roba da dire? Ma roba da dire che cosa? Ma non c'è più vergogna per niente. Il mio orgoglio. Ma come un mio vanto? Ma non è che uno va in radio, in televisione, in piazza a dire io sono fascista. Io mi sono tatuato sulla pelle. Sì. No, l'aquila imperiale con un bel gladio. Ma quello puoi tatuarti anche. Ma anche nel pube puoi tatuare, anzi lì sarebbe giusto tatuarsi. Per me conta di più un Mussolini che ha fatto più Mussolini in 20 anni, al di là della strozzata te lo devi tatuare. Ascolta, al di là della strozzata che ha fatto al di là della che ha fatto con le leggi razziali che ha sbagliato, al di là di allearsi con Hitler che ha sbagliato, no, lui è stato una persona di lungimirante, l'unico veramente visionario di un'Italia nuova che ha fatto tanto. Questi altri comunisti che si sono appropriati del Festival del Cinema di Venezia. Vabbè, no? Che c'entra, che c'entra il Festival del Cinema? Tra chi l'ha istituito? E chi l'ha istituito? Santoro. Ah, vabbè, il Duce. E allora, ho capito che lavorando con Ciarrapico, diciamo, certe tendenze e amori sono antichi, no? Perché anche il signor Ciarrapico è un grande amante. Ma se uno è Mussolini, tu sei mussoliniano, no? Sarai fascista. Ma uno non è che lo può dire così liberamente. Perché lo vuoi carcerare? Non si può dire liberamente così. Ma io sono fascista. In Italia no, francamente. Perché? Che reato si commette? Perché esiste un reato di apologia del fascismo. Ma io voglio capire, Paolo, scusami. Andiamo avanti con ste cazzate. Bravo, con ste cazzate. Scusami, Paolo. Avanti con ste cazzate. Paolo, scusami un attimo. Incredibile. Ma se ci fosse Mussolini oggi, l'Italia funzionerebbe meglio? Oh, mamma mia, che spettacolo. Adesso mi è venuto un brivido che me l'hai detto. Ti emozioni, ti emozioni. Sì, mi emoziono. Parenzo, capito? Si emoziona. Vabbè, ma uno non può dire, uno c'ha le sue fissazioni, non lo può dire. Può dirlo in casa sua, non è che può proclamare sono fascista in Italia. Ma Berlusconi è come il Duce? Berlusconi è come il Duce, meglio, no? Beh, comunque gli somiglia un po'. Ma è troppo democratico, è troppo buono. Troppo buono e democratico. Democratico, troppo buono, è troppo altruista. Ma gli altri... Sicuramente un uomo generoso, a differenza di tanti altri che intascano quattrini e non spucciano niente alle persone che hanno bisogno. Senti, sai che in Germania non arresterebbero uno così? E gli ebrei che cosa sono per te? Delle brave persone, sono tanti amici ebrei. Capito, Parenzo, però non è così anti-ebraico, Ma cosa c'entra? Quello non è che mi interessa il concetto di fascismo, ma io non è che sono antifascista. Non c'è niente contro la gente di colore, non c'è niente contro i fascisti. Beh, contro i nomadi magari qualcosa. No, sì. I nomadi lascia perdere, sono un'altra cosa. Che c'hanno i nomadi? Sono ladri quelli. Tutti ladri. Tutti. 99,9%. Per cui che faresti con i nomadi te? E prenderei zampate nel culo e rimanderei a casa loro. Zampate nel culo. La traduzione in italiano di zampate nel culo quale calci sarebbe? Calci. Sarebbe mandarli via in maniera molto più, diciamo, democratica e civile, però riportarli a casa. I comunisti in Italia chi sono ancora? Ci sono ancora comunisti? Sì. Come chi sono i comunisti? Che ne so? Gerd Lerner. Gerd Lerner com'è? Pure lui è proprio zecca, quello è proprio una zecca. Una zecca proprio, eh? Sì. Il primo. Ha detto tra l'altro che Berlusconi resta puttaniere. E lui rimane frocio. No, vabbè, frocio, che c'entra frocio? Adesso che c'entra frocio? Dai, su. Ma frocio è un sesso buono, buono. Chiedi scusa a Bertazzoni, il detto comunista schifoso. Quello stava lì a fare il suo mestiere, dai. Su. Bertazzoni, ti chiedo scusa, la prossima volta invece che minacciarti ti darò la capocciata direttamente, così almeno. Ma dai, ma non si può dire così, ma neanche per scherzo. Ciao Paolo. Ciao ragazzi, ciao. Divertitevi, grazie, ciao. Paolo Giallorenzo. Mauro da Mantova, vai. Mauro, cosa c'hai? Sei tu. Sei tornato. Che c'è? Dimmi, caro, dimmi. Ascolta. Dimmi. Te lo ripeto più. Dimmi. Se sento ancora alla fine trasmissione quel coglione Ricottaro di Gigi il Cazzaro. Chi è? Il figlio di Tronchetti Provera, e sai che. Ma chi è Gigi il Cazzaro, il figlio di Tronchetti Quello Provera? Quello che quando è il coso di Carinzi è lui. Ah, di perché Carisio. Io lo so di 105, l'ho ascoltato dal 2000. Ma che c'entra quello? Che c'entra? Ma perché te l'ha imposto suo padre? Ma chi? E gli devi mandare la voce di quel coglione di suo figlio. Ma chi? Quello incapace, Gigi il milionario, si fa chiamare. Ma non è Mazzoli, lui, è uno. Ma che c'entra Mazzoli lo Zoo di 105? Ma te stai sbarrellando? Parla di cose serie, dai, Mauro. Perché ti dà fastidio, perché sai che l'ho beccato. La sua voce è inconfondibile. Ma la voce quale voce? Il tuo voce di cosa? Sei impazzito? La voce di chi? Quello del casello di Carisio? Chi? Sì. Ma non è nessuno, è un ascoltatore, non è il figlio di nessuno. Vabbè. È pazzo, questo è pazzo. Ma so che è lui. Totalmente. Vabbè, sai che è lui, Ascolta, vabbè, dimmi. Ascolta, ma avevi promesso che mi mettevi in contatto con il coglione di Pietro, quell'altro testa di cazzo di antipatico. Chi? Imbecille di Toscani che mi ha fatto cagare da quando ho cominciato a fare le foto per la Benetton. Ma che c'entra adesso il povero Toscani? Scusa, spiegami che c'entra. Ma chi cazzo è quella merda? Ma chi cazzo è? È un fotografo. Ma chi cazzo è? Ma è un fotografo, un professionista, uno che si è fatto un mazzo così. Tu che cazzo hai fatto nella vita? Oh, bello. Il carrozziere, vabbè, con tutto il rispetto per i carrozzieri. Ho manipolato, ho manipolato pezzi di macchina da 7 milioni di euro, testa di cazzo. Hai manipolato? Se vuoi vedere la macchina che ci ho messo le mani io, devi andare alla manifestazione lì sul lago di Como, Villa Veste. Ma di che sta parlando? Nel 2009 ha vinto il primo premio come migliore stanno d'epoca. Cogliere. Ah, le auto d'epoca hai fatto, le auto, hai fatto il carrozziere, vabbè. Sulle macchine che tu vabbè, hai messo le mani sulle macchine, vabbè, ma come che hai fatto? Vabbè, ma pesco, non ho capito perché Toscana è una testa di cazzo, spiegami. Perché non so fare un cazzo, fare la foto sono capaci tutti. A fare la foto sono capaci tutti, ma di che volevi parlare stasera? Non ho capito, di che volevi parlare? E quell'altro coglione che c'hai lì, quell'ebreo di merda. Vabbè, basta, basta con queste espressioni, non voglio più sentire parlare di te, di ebrei, basta. Sai che differenza c'è da uno zingaro a un ebreo? Dimmi qual è. Lo zingaro è un ladro. Che commette, è un ladro illegale. Illegale. L'ebreo sì. È un ladro legale. Vabbè, hai fatto la scoperta del secolo, vai. Della banca è la sicurezza. Parenzo, lo mandi a fare in culo tu o no? No, la banca è usura legalizzata. Vabbè, una usura legalizzata. La banca è legalizzata. Mauro, vabbè, la parla da sola. Ci sentiamo domani 18:30, domani, lasciatelo parlare. Mauro, domando, vai, Mauro, parla, continua a parlare mentre mandiamo la sigla. Vai, via. Vai. Scusami bene. Cruciale. Ciao ragazzi, 18:30. Perché mi devi sempre bypassare e boicottare? Perché le verità sono scomode, eh? Le verità sono scomode, eh? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Questo non credo. Radio 24. La passione si sente.